sen yettin. Tuzan yandı, tuzan yandı. A dosto fuori ingrato più dispietto. Farmene un po', farmene un po'. Adoro il fuoco che cuoce ma si fuoia. Te lascio stare, te lascio stare. E non te corri appresso, non te struio. Solo a guardar, solo a guardar. Yalla, yalla, ambotta, yalla, yalla. Yalla, yalla, ambotta, yalla, yalla. Fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone. La capa c'è, la capa c'è. E chiunque è tornato a fedute. Stai sempre qua, stai sempre qua. La capa vuota, vuota, torna, torna. Attorno a te, attorno a te. Cuore canta sempre, non ti guarda. Sposa mai ne, sposa mai ne. Yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma, yamma